giorno che passa è come un treno che arriva, c'è qualcuno che aspetta. Mentre il cuore ti suda nel vedere la gente che sorpassa di fretta e la pioggia che cade come fosse un sergente ti strappa dal letto. C'è qualcuno che chiede, c'è qualcuno che fruga e c'è qualcuno sospetto. Amore in soffitta è come fosse un mantello, ti scalda le spalle. È un amico lontano, chiuso dentro una cella che si guarda le stelle. Ed è lontano dal mare e non lo puoi tollerare. Allora esprimi la tua intolleranza e facci un bastone con cui poterti rialzare. Prendi a calci la vita come fosse un somaro che non vuol camminare. Un sasso da strada che non vuol rotolare per quello che vale. La violenza che hai dentro è come il tuo passaporto e di fuoco le spalle. È un tuo messaggio lasciato, un'impronta diversa ed è una preghiera alle stelle. La gente che è intorno, che non ti riconosce, che ti fredda lo sguardo. Tu hai la forza del vento, hai la storia del vento e del vento il ricordo. Ed ogni amico che parte è un bicchiere che si alza ed è una stretta di mano. Ma il tuo sguardo più forte, i tuoi sogni più veri lo proteggono bene. Non lo vedrai ritornare e non lo puoi tollerare. Allora scagli la tua intolleranza verso la notte per non farla calare. Accendi un fuoco nella tua vita che si riscaldi o che si lasci bruciare per quello che vale.